Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. La nomination di Bettì arriva a fagiolino. E voilà, missione compiuta. 1000 litri di birra di rigore. Ringrazio Gianluca per la nomina. Io nomino. Mi hanno nominato, accetto la sfida. Me lo berrò a scoppio. Bene. Aspettavo peggio, uno stiro. Avete mai sentito parlare di neck nomination? Se avete figli adolescenti, loro sanno di che si tratta. Neck nomination è una sorta di catena di Sant'Antonio che funziona nei social media, soprattutto su Facebook. Neck nomination significa io ti nomino per bere a garganella, tradotto così, diciamolo così. La persona nominata deve a sua volta fare quello che fanno tutti gli altri di questa catena, che ormai prende decine di migliaia di persone. Deve di fronte al proprio smartphone farsi vedere che tracanna alcol fino a stare male, quindi 1, 2, 3, 4 bottiglie di birra o superalcolici, bottiglie di gin, bottiglie di vodka, bere come se fosse acqua, fino a che naturalmente non si ha il naturale esito, la persona vomita. Ci sono dei film su Facebook di persone con la testa infilata dentro il water del gabinetto o altri che vomitano. La persona nominata dai suoi amici deve rilanciare la sfida, deve anche lui mettere il video che fa questo tipo di cosa. Io su questa cosa avevo studiato, letto, fatto anche dei pezzi. Finché vedi nei video persone che non conosci, dici, ma guarda questi ragazzi stupidi. Poi quando ti capita che un figlio ti fa vedere i video di persone che tu conosci, ragazze che hai visto da bambine e che hai portato alle feste mascherate insieme ai tuoi figli, e le vedi nella summa dell'idiozia. Io non sono assolutamente un astensionista alcolico, anzi, mi piace le buone bevute, mi piace il bere, mi piace la piacevolezza e la convivialità che c'è quando si beve qualcosa di buono assieme. Ho per lungo tempo teorizzato la fuga dal mondo attraverso il margarita, cocktail che ha ispirato vari anni della mia vita, quindi non sono assolutamente un negazionista dell'uso dell'alcol. Poi mi sembra una cosa molto stupida, ecco, vedere questa ragazza con una bottiglia di birra che se la tracanna giù, apparentemente e palesemente schifata, perché non è una cosa che sia piacevole mandare giù l'alcol senza nessuna motivazione, senza nessuna spinta, soltanto per berlo così, fino a star male. Dice, attenzione, questa è la seconda, guardate, ne ho bevuta un'altra, e continuare ad andare avanti. Su Facebook ci sono già 17.000 fan di neck nomination, e la varietà delle situazioni è infinita. Ci sono persone che bevono mentre sciano, persone che bevono mentre guidano, una ragazza neozelandese è entrata in un negozio di liquori a cavallo, si è presa una bottiglia, si è messa a bere, quindi si esagera, si crea delle situazioni sempre più scenografiche, si manda sempre avanti il limite. Si stanno cominciando a preoccupare un po' i genitori, un po' le persone attente a questi fenomeni. Facebook non toglie questi video, non limita la pubblicazione di questi video, perché nella sua policy, nelle sue regole, non c'è il divieto di farsi vedere mentre si beve alcol. Neck nomination si dice che abbia già causato la morte di 2 ragazzi di 19-22 anni. Su questo andrei molto cauto. Uno è caduto in un fiume in Irlanda dopo aver accettato questa sfida e affogato. L'altro è stato trovato in coma etilico e è morto un'ora dopo. Non voglio creare un rapporto causa-effetto così diretto fra neck nomination e queste 2 morti. Comunque sia, sono persone che sono decedute nel corso di questa attività. Beh, voi cosa ne pensate? È qualcosa che mette assieme il bullismo, la voglia di essere spacconi, di dimostrare che si può andare oltre i propri limiti, il gusto di trasgressione attraverso cui tutti siamo passati, chi non si è ubriacato da ragazzo, chi non ha fatto queste sconsiderate, sprocedate passatelle fra amici a fare chi beve di più. Certo è che il social media amplifica tutto questo, lo moltiplica, lo centuplica. Sono qui perché mio cugino ha osato sfidarmi a questa gara. Questa gara consiste in bere un litro di birra, e quindi una bottiglia. Al termine di questa bevuta bisogna nominare tre persone. Se queste tre persone non condividono la loro esperienza nel giro di 24 ore, perdono chiaramente la sfida e devono dare allo sfidante una cassa di birra. Le persone da me nominate sono Luigi, mio collega Salvatore Olli, e dato che ti ecco, sei... così funziona Neck Nomination. Uno si fa la bevuta, sfida e nomina altre persone del suo giro, proprio con la logica tipica del social network. Naturalmente nomina i compagni di classe, i compagni di lavoro, come in questo caso. Non pensate siano solo bambini, adolescenti o sprovveduti, no, ci sono anche persone adulte che in realtà dovrebbero avere la testa sulle spalle. Ma sa com'è il gioco? Lo faccio, nomino altre persone, non si possono tirare indietro, sennò chissà, diranno gli amici, gli altri lo fanno. Non so se questo alzerà il tasso di dipendenza dell'alcol dei giovani, o se questo è semplicemente un gioco stupido e come tale vada preso. Dottoressa Franca Beccaria, buongiorno. Buongiorno. La dottoressa buongiorno. Beccaria è sociologa, è uno dei soci fondatori di Eclectica, che è un'agenzia torinese che realizza progetti di ricerca, formazione e intervento sui temi della salute e degli stili di vita. Ha scritto un libro, Alcol e giovani, riflettere prima dell'uso, giunti 2013. Lei quando ha scritto questo libro ancora di Neck Nomination però non si parlava? Assolutamente no. È una cosa recente? Un fenomeno nuovissimo. Di poche settimane infatti. Sì. Lo state osservando? Avete tratto qualche riflessione, qualche conclusione? Guardi, lo stiamo osservando, ma mi è piaciuto molto il suo inizio della trasmissione, le considerazioni che lei ha fatto all'inizio, che sono un po' le stesse che abbiamo fatto noi nel nostro istituto di ricerca, nel senso che la prima impressione quando arrivavano le notizie dall'Australia, dall'estero, era che si trattasse di una moda molto probabilmente passeggera, che forse ci avrebbe sfiorato, ma non così. Nell'arco di pochissimi giorni, appunto di poche settimane, invece anche noi, oltre che vederlo per ragioni di lavoro, ci siamo accorti che gli amici dei figli, oppure le mie colleghe che lavorano nell'ambito della promozione della salute con gli adolescenti, si sono trovate con i loro contatti Facebook, essendo in contatto con molti ragazzi, improvvisamente a vedere questi video. Guardi, io chiedo agli ascoltatori, se avete dei figli adolescenti, sì, provate a fare una domanda, non ve lo dicono subito perché hanno qualche reticenza, anche perché probabilmente lo possono fare anche loro, l'avranno fatto anche loro o saranno anche loro invogliati a farlo. Dite, mi fai vedere i video dei tuoi amici che bevono su Facebook? Vi faranno vedere, e lo stupore è proprio, dottoressa, vedere persone che si conoscono. Finché un ragazzo sconosciuto, so che questo non assolve assolutamente le responsabilità, dici, ma sai, vatte la pesca di chi è figlio e tutto, ma conoscendo le famiglie, conoscendo i figli, vedere ragazzi che fanno questa cosa, significa che c'è un meccanismo di logiche vessatorie di gruppo così stretto e così imperioso che tutti sono costretti a farlo, una sorta di iniziazione. Non si entra nel circolo di quelli che non sono sfigati se non fai Neck Nomination, questa almeno è la mia impressione. Sì, questo è quello che appunto abbiamo notato anche noi, proprio le persone più insospettabili, no? Come diceva lei, figli di amici, di conoscenti o i nostri stessi figli. Però detto questo, visto che appunto il fenomeno è difficilissimo da studiare da un punto di vista proprio da analizzare, proprio perché Facebook fugge a ogni tipo di analisi, no? È così pervasivo. Io ci ho riflettuto parecchio in questi giorni, ne ho discusso con i colleghi, ne ho discusso con chi lavora con i giovani, e molto difficile arrivare a delle affermazioni nette, ma ciò che pensiamo è che sia effettivamente un fenomeno diffuso, che è curioso da un punto di vista scientifico dello studio ed è interessante perché raccoglie in sé degli aspetti di tradizione, come giustamente ha detto lei, chi non ha fatto dei giochi alcolici? Allora noi, facendo le classiche ricerche qualitative con interviste, continuiamo a rilevare tra i giovani la presenza degli stessi giochi alcolici che portano veramente all'abuso, al bere tanto, che sono giochi di resistenza, no? Di ecco, sfida, ne citiamo qualcuno, anche se conosciamo, sono antichissimi, si facevano al liceo, si facevano chi ha fatto il servizio militare, sono sempre fatti. Ciò che colpisce è che gli stessi antichissimi che dice lei sono ancora diffusi tra i quindicenni di oggi e i diciassettenni, no? Quindi continuano a farli. Qual è la differenza rispetto alla NEC nomination? La differenza è che i giochi alcolici, queste sfide tradizionali, la passatella, le mille altre, si fanno in un contesto di gruppo. Per cui se il ragazzo sta male, immediatamente o comunque si interviene, nel senso che lo si fa smettere, lo si fa riposare, al peggio si chiamano genitori e al peggio si chiama l'ambulanza. La differenza con la NEC nomination è se questo gioco lo fa soprattutto un ragazzino giovane. Noi abbiamo visto dei video di ragazzine di 14 anni che magari sono sole in casa e quindi attingono al bar di casa e se si sentono male, che succede? Ecco, questa io credo che debba essere la grande preoccupazione del mondo adulto, perché io penso che da un punto di vista del fenomeno in sé sarà una moda molto probabilmente passeggera. E perché dico questo? Perché già lo dimostra il fatto che se andiamo su Facebook vi sono molti video fatti da giovani spontaneamente, non in progetti di prevenzione, di contro NEC nomination. Allora fermiamoci un attimo, dottoressa, che devo dare un attimo l'informazione del traffico, è molto interessante perché la rete ha questa sua singolare partenogenesi. Quando si crea un fenomeno che dà autorevolezza, che dà esistenza, che dà leadership, naturalmente si crea anche la parodia di questo fenomeno. A un certo punto i leader, che sono quelli che fanno NEC nomination, sono talmente tanti e talmente diffuso che cominciano a entrare in una sorta di moda sin troppo frequentata e quindi cominciano a diventare sfigati. E quindi cominciano a nascere gli anti-NEC nomination. Ve ne daremo un assaggio tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Giuseppe, io ci provo a bere sta roba, ma... Poi mamma mi scrive. Qui è per vomitare. Prima di bere, però, nomino Angel. Mi raccomando, hai 24 ore di tempo. Alla tua, Giuseppe. Ancora dei video della NEC nomination, il fenomeno su Facebook di cui stiamo parlando, per cui i ragazzi si lanciano in una sorta di catena di Sant'Antonio, l'obbligo di bere fino a star male, di bere alcolici, superalcolici, birra, ma ho visto bere di tutto, le peggiori schifezze che stanno in casa, addirittura gli amari, se nel bar di casa non c'è di meglio, o quello che si trova al supermercato, quello che si trova in giro. Bere fino a star male, molti dei video della NEC nomination hanno anche l'esito rabelesiano del troppo bere, vomitano, ruttano, fanno cose schifose, fanno quello che fa un essere umano in un momento di sovraccarico alcolico. Ho al telefono la dottoressa Franca Beccaria, che è una sociologa, fondatore di Eclectica, un'agenzia di Torino che fa progetti proprio di ricerca, formazione e intervento sui temi della salute e gli stili di vita, che poi ha scritto un libro su alcol e giovani, ricordo di Torre Giunti, Riflettere prima dell'uso. La dottoressa Beccaria è d'accordo con noi sul fatto che la NEC nomination sia un fenomeno molto recente, nuovo, è nato da poche settimane. Pensavamo tutti fosse qualcosa che esplodeva in paesi lontani, ma poi ci siamo resi conto che se chiediamo ai nostri ragazzi cos'è la NEC nomination, sorridono, fanno finta di niente, poi tirano fuori lo smartphone e fanno vedere le foto dei ragazzi, i video dei ragazzi che vedete venire a casa a fare i compiti, magari di cui conoscete i genitori, e che si stravolgono in queste folli bevute, che non hanno nulla di allegro, non hanno nulla di conviviale, non hanno nulla nemmeno di trasgressivo. Somiglia un po' a quei programmi televisivi che fanno gli stuntmen su le cose estreme che si fanno le persone, si vede gruppi di persone folli che si infilano chiodi in testa, che si buttano giù dai dirupi e che si accendono delle micce fra le dita dei piedi, si fanno del male terribile E alla fine sul cartello c'è scritto sotto: queste cose non fatele, questi sono degli stuntman. Ci hanno anche fatto un film. È una cosa terribile, fanno le peggiori sconcezze autolesioniste e si fanno male veramente. Beh, Neck Nomination assomiglia un po' a questo. D'accordo, dottoressa Beccaria, con una sorta di strana riedizione contemporanea degli antichi riti iniziatici. Non si tuffano dalle torri legate a un dito, ma fanno cose del genere. Sì, sì, la possiamo leggere da questo punto di vista. Teniamo conto che la nostra società ha sempre meno possibilità di offrire dei riti iniziatici ai ragazzi, no? Quindi non ci dobbiamo anche stupire che si inventino delle situazioni che purtroppo possono comportare molti, molti rischi. Dobbiamo anche dire però che, essendo appunto un fenomeno così difficile da monitorare, in realtà noi non riusciamo a capire quanti di questi ragazzi, probabilmente la grande maggioranza lo farà una volta sola, proprio per rispondere, no, alla chiamata, alla sfida dell'amico, e quanti invece andranno a reiterare. Di questi che lo praticano, in realtà sembra, dico una navigazione che noi abbiamo fatto, che in realtà i ragazzi italiani tendano a stare anche su quantità più misurate, cioè sfidarsi su un certo numero di unità alcoliche, no? La bottiglia di birra, un certo numero di sciottini e così via, mentre quelli che abbiamo visto all'estero sembrano decisamente ragazzi che arrivano a bere a livello proprio da star male, no? Fino a vomitare e quant'altro. Questo però, le dico, è una percezione, perché non abbiamo la possibilità di fare un lavoro al momento di analisi approfondita. Sì, scusa, ha parlato dello sciottino, dei rituali dei ragazzi. Noi avevamo fatto tempo fa una trasmissione in cui avevamo per la prima volta segnalato questo fenomeno abbastanza singolare, dei ragazzi che bevono di tutto, e come fanno gli antichi giochi d'osteria che lei raccontava, la passatella che serviva sempre per, poi finiva sempre a coltellate, o quei giochi che si fanno molto noti negli ambienti militari o paramilitari, che si serve per prendere la recluta, il novellino, si mette a giro e si fa bere, e si fa un gioco in cui tutti sono d'accordo di ingannarlo e farlo bere all'improvviso. Esiste anche una sorta di tipologia di alcolici che segna le epoche. Non avrei mai immaginato che i ragazzi bevessero l'anice, la sambuca, gli amari che si bevono i nonni o che si bevono i bisnonni, eppure è proprio così. Caipirosca, caipirinha, son fora come una vigna, ciupito, mojito, son chiste, molito, una bella tonada, la pigna colada. Ecco, questo è il fenomeno che segnalava la professoressa. Avete sentito? È una canzoncina che prende in giro le mode alcoliche dei propri coetanei. Il paradosso che l'hanno fatta dei ragazzi di Trento, che è di Predazzo Cavalese, Tione Predazzo Cavalese, che sono zone in cui la cultura dell'alcol, questi ragazzi hanno bevuto alcol nel biberon da quando sono bambini. Però hanno messo insieme una canzoncina dove in realtà la parte degli sfigati la fanno quelli che, per darsi forza, per darsi coraggio, per riuscire a avere la capacità di relazionarsi con ragazze, e questo bevono, e questo fanno, e loro dicono: per noi tutto sommato è meglio bere acqua, bere analcolici o bere cose che non fanno male, perché poi ci tolgono la patente, ci rimbecilliamo e via dicendo. Lei diceva che avete anche voi osservato, dottoressa Beccaria, questo tipo di reazione, quelli che senza essere i primi della classe, boy scout, i buoni, i secchioni, i figli di papà, però cominciano a prendere in giro e individuare il lato cialtrone della Neck Nomination. Sì, abbiamo notato questo, e devo dire che secondo me sarebbe proprio l'aspetto che in qualche modo dovrebbe essere incentivato, perché finché ne parliamo noi adulti, e ne parliamo sui giornali, ne parlano i media, rischiamo, se non stiamo attenti, di incentivare la curiosità e di incentivare il fenomeno, no? Ogni volta che si fa allarme intorno a un certo comportamento giovanile rischiamo di promuoverlo, seppure abbiamo le intenzioni di limitarlo. Invece abbiamo osservato appunto questi ragazzi che da soli si mettono davanti alla webcam e si mangiano tre piatti di pasta, piuttosto che bevono mezzo litro di Fanta, o piuttosto E proprio facendosi vedere come più coraggiosi, più bravi. Lei però sa che esistono programmi televisivi, soprattutto mediati, presi dagli Stati Uniti, dall'estero, in cui ci sono questi recordman, cioè uno che gira per tutti i posti del mondo, mangia le cose più schifose, gli insetti, o un altro che mangia delle cose sproporzionate, l'ho visto mangiare una sorta di panino con hamburger con mezzo metro di diametro e mangia fino a star male, e c'è questa sorta di record che poi i ragazzi sentono magari incentivati a fare la stessa cosa. No, quello che abbiamo visto noi è proprio finalizzato a prendere in giro la denomination alcolica, cioè dicendo ma non sono, e poi lo dicono proprio, dico ma non sono così scemo da rovinarmi, no, per un video, piuttosto mi mangio un piatto di pasta. Un'altra cosa che abbiamo rilevato altrettanto interessante, questo tra le ragazzine giovani, è che hanno accettato la sfida, questo ce l'hanno raccontato alcune ragazze, ma poi hanno bevuto, hanno messo nei bicchieri in realtà acqua, dicendo che si trattava di vodka, e quindi hanno accettato la sfida di bere i 3 bicchieri di vodka, ma dentro c'era acqua. Quindi molto più scaltre, molto più astute, hanno trovato la chiave di volta. Prendere in giro gli altri, costringere poi alla ciucca forzata 4 amici che li stanno scontenti, loro belle tranquille, bevono acqua, fingono deliquio, fingono alcolismo, come le donne sono capaci a fingere anche l'estasi, e quindi i ragazzi rimangono buggerati. Grazie all'ottressa Franca Beccaria, grazie a Valerio Rocchetti e Fabrizio Intonti, a domani.